All'epoca della sua uscita e poi per molti anni a seguire, Matrix fece veramente scalpore. E non solo ebbe la discutibile conseguenza di convincere molte persone che stavano bene con lunghi cappotti di pelle nera, non solo per quello, è che Matrix di fatto cambiò in buona parte il cinema d'azione. Una di quelle cose che sconvolse il pubblico di tutto il mondo fu il cosiddetto bullet time. Il termine probabilmente non dice molto, ma sapete perfettamente di cosa sto parlando. È quell'effetto visivo per cui il protagonista si piega al rallenti per evitare una pallottola e la macchina da presa gli gira intorno, creando uno stranissimo effetto. È la più precisa rappresentazione di quel momento che viene descritto da Andrea nel suo racconto. Un solo momento in cui si ha come il potere di bloccare il tempo e di vedere tutto in maniera più lucida. Andrea qui parla solo di una curva, qualcosa che in realtà si fa in pochissimi secondi, ma per lui quei secondi si sono dilatati fino a diventare un racconto intero. Il suo racconto mi ha fatto venire in mente un episodio di quando ero ragazzo, non solo giovane ma anche particolarmente deficiente. Dunque era così, al sabato pomeriggio si andava a ballare delle bruttissime canzoni in bruttissime discoteche, di solito. Siccome l'età, come abbiamo detto, è quella della stupidera, come la chiamava mia mamma, capitava spesso che si finisse a litigare con altri ragazzi, esagerando il tutto ovviamente, no? Sempre come fosse una questione di vita o di morte. Le classiche scenette per cui c'è uno che ti guarda male e ti chiede: oh, cos'hai da guardare? E tu che magari non c'hai proprio niente da guardare, e anzi, probabilmente non stavi neanche guardando, finisci per litigare con uno della tua età, con i capelli lunghi, un motorino veloce come un offshore e probabilmente una serie di amici molto più cattivi di te. Anche perché, sia chiaro, questo lo dico sempre, io di cattivo non avevo, non ho e probabilmente non avrò mai nulla. Sono finito in tutta la mia vita in un paio di risse che per me sono pure già troppe e tutte e due le volte le ho sempre prese. Insomma, non proprio un ragazzo di strada, ecco. Però, come dicevo prima, c'era la stupidera con cui fare i conti. E c'era anche una certa arroganza tutta adolescenziale che ti porta a fare cose apparentemente prive di senso. Insomma, un sabato pomeriggio alcuni miei amici si mettono a litigare con altri ragazzi fuori da una discoteca. Volano paroloni, qualche spintoni e soprattutto una minaccia. Oh, ci vediamo stasera fuori da quel posto là e la risolviamo. Se non venite, siete dei conigli. Insomma, un vero e proprio duello in piena regola. Mancava solo lo schiaffo, quello in pubblico col guanto bianco. Solo che ovviamente le motivazioni non erano esattamente quelle che animavano i nobili dell'Austria nell'Ottocento, ma un molto più banale e inutile sguardo storto o una roba del genere. Ma tant'è, il dado è tratto. I miei amici non si possono tirare indietro. E ovviamente tentano di fare del proselitismo. Roba che in un mondo normale, alla richiesta «Dai, vieni anche tu a picchiarti questa sera con dei ragazzi brufolosi», non si dovrebbe neanche rispondere. A 14 anni, invece, le cose vanno diversamente. E non puoi ammettere che piuttosto ti scheggeresti una rotola da solo con un cacciavite. No. Rispondi che ovviamente ci sarai anche tu. E che anzi, non vedi l'ora. E quindi ti ritrovi da un momento all'altro a fare quello che aspetta in strada per fare una rissa. Avete presente più o meno? Ovviamente sei spaventato come un bambino. E però ostenti sicurezza, no? Una sicurezza che non ti appartiene manco per sbaglio. E quindi aspetti. Aspetti. Aspetti. E nel frattempo fai andare all'immaginazione, no? E ti prepari delle frasi da Bruce Willis da dire per intimorire il tuo avversario. E ti chiedi se riuscirai a schivare i pugni che ti arriveranno. O se addirittura avrai il coraggio di tirarne tu uno di pugno. E quindi aspetti. Aspetti. Aspetti. E smonti l'attimo, lo rivivi nella tua mente mentre, prima che sia successo, già ci pensi almeno un milione di volte. E sei pronto a tutto, anche se sai che stai facendo una cavolata. E aspetti, aspetti, aspetti. E abbiamo aspettato, e basta, perché nessuno si è presentato.